Quello che sappiamo è che il caporalato, diciamo, è vivo, vegeto e lotta contro di noi. Nelle ultime 48 ore ci sono stati diversi articoli, diversi fenomeni, quindi ovviamente che vengono alla luce una volta che sono indagati. Sicuramente ce ne sono troppi di più di cui ancora non conosciamo il dove sono, il quanti lavoratori coinvolgono. Gli ultimi appunto che si leggevano tra, diciamo, ieri e oggi sono questi tre arresti a Modena nella filiera delle carni, quindi la lavorazione delle carni, che di fatto è lo stesso settore della grande vertenza e della lotta che ci fu alla Castelfrigo nell'anno scorso, dove appunto, cioè, diversi lavoratori fruttati in maniera indecente, quasi a livello, diciamo, schiavistico, stavano sotto a questa rete di caporali, dove fatto non fanno nient'altro che speculare sulla somministrazione illecita di manodopera. E tra l'altro, appunto, c'è stata un'indagine della Guardia di Finanza che scopre, tra l'altro, ma ovviamente perché il sistema è quella cosa lì, che le imprese, no, queste erano molto collegate tra di loro, anche se sembravano appunto lavorare in posti diversi e con gruppi lavoratori diversi, hanno evaso circa 3 milioni di euro. Altre notizie, sempre sul caporalato, c'è stata una delle udienze, di fatti, diciamo, scoperti qualche mese fa, nella zona, diciamo, della Sila, dove appunto il tribunale e il giudice in udienza scoprono appunto dettagli di, come dire, di una forma paraschiavistica all'interno, ovviamente, però, oltre del settore agricolo. Qua ci riferiamo proprio a, sono proprio paesi piccoli della Sila, Camigliatello Silano, San Giovanni in Fiore, così via. Effettivamente, grazie proprio alle testimonianze di questi richiedenti d'asilo, si sono riusciti a ricostruire tutte le varie vicende, quindi anche le condizioni di lavoro. E da ultimo, invece, proprio ieri sono stati scoperti altri casi nel Ragusano, dove addirittura, cioè, gli schiavizzati, no, questi super sfruttati, erano circa una 60, sia italiani che stranieri, sempre nel settore dell'agricoltura, dove appunto non c'era soltanto, cioè, il caporalato in questo senso proprio sistemico, dove non soltanto la questione lavoro, ma anche quella abitativa veniva gestita dai caporali, che si facevano pagare appunto questa cresta per fare vivere intere famiglie, familiari anche con bambini e neonati in condizioni abbastanza fatiscenti. Adesso, non per passare dai casi particolari a parlare poi di massimi sistemi, però guardando in generale a questo fenomeno che, come dicevi prima, appunto sappiamo che esiste e lotta contro di noi, ci sono due fattori principali. Da una parte è quello della filiera che è interessata, che è quella sempre comunque agroalimentare, e dall'altra c'è la percentuale di stranieri che vengono sfruttati all'interno di queste situazioni. E quindi partiamo dalla prima, cioè, è possibile poi all'interno del sistema agroalimentare, diciamo, prevalente uscire da una logica in qualche modo che poi schiavizza i lavoratori? Sì, esatto, questo è un punto abbastanza nevralgico, cioè, se il governo avesse usato, ma ovviamente non vuole farlo per interesse politico, un centesimo dell'energia che ci sta mettendo contro gli immigrati o contro tutto quello che può essere comunità, se vogliamo, di solidarietà, penso a quello riace, eccetera, contro fenomeni come il caporalato, che di fatto davvero ci impoveriscono totalmente, ovviamente sarebbe una situazione politica diversa, ma siccome questo è il governo, no, giallo-verde, quello che ci ritroviamo è esattamente quello che dicevi tu, cioè, ovvero proprio anche in queste sentenze che stanno venendo fuori, cioè si rimarca il fatto che effettivamente, essendo gli immigrati molto più vulnerabili e quindi in uno stato di bisogno maggiore, approfittarne è più facile. Il problema è chi dà il diritto di approfittare, no, a un'impresa o a un caporale di un altro uomo, che in questo caso è il lavoratore, che è disperato. Quindi ovviamente è un circolo vizioso che si rivolta verso le fasce più deboli della popolazione, della nostra società in generale, che però se in termini maggioritari oggi investe un po' più gli immigrati, quello che vediamo è che investe sempre di più anche gli italiani, perché anche gli italiani, in quanto lavoratori e in quanto sostanzialmente persone che hanno necessità di lavorare per poter campare e non hanno nessun altro spiraglio, vengono ricondotti dentro questo schema e questo circuito, se vogliamo, di sfruttamento, che poi è una fortissima anche violenza, non soltanto economica ma anche sociale e politica.